America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York. Mario Platero, beh, avrete visto la notizia di qualche giorno fa in arrivo dal CERN di Ginevra, secondo la quale degli scienziati che lavorano nel più grande acceleratore del mondo, il Large Hadron Collider, hanno scoperto una nuova particella mai osservata finora e forse addirittura più pesante del bosone di Higgs, che è stata poi chiamata, battezzata come la particella di Dio, la particella che in teoria conferisce la massa a tutte le altre particelle e di conseguenza a tutta la materia dell'universo visibile. Ecco, stiamo parlando dell'ultimissima frontiera della fisica, di quel territorio inesplorato che ci riguarda e che in qualche modo ci affascina perché non lo capiamo, non lo comprendiamo. Attenzione, per ora sono dati preliminari che devono essere confermati, sono stati pubblicati dalla rivista Nature, però come vi dicevo ci porta in quel territorio inesplorato nel quale potremmo poi imbatterci in fenomeni che per ora non sono previsti dalla teoria di riferimento della fisica contemporanea. Perché vi parlo di questo? Non è una notizia americana, è una notizia europea, ma vi parlo di questo perché è una notizia che arriva dalla Svizzera e c'è un personaggio che ha passato parecchio tempo in Svizzera e poi in America e che ha lasciato il segno, un grandissimo personaggio, nella storia della fisica. Sentiamo. Is there any way out of this impasse created by man himself? Non so quanti di voi hanno riconosciuto questa voce, qualche secondo per cercare di indovinare, e nel frattempo ve lo dico io, è Albert Einstein. Perché vi parlo di Albert Einstein proprio oggi? Ma devo dire per molte ragioni. La prima ragione è che questo è un periodo di celebrazione di Albert Einstein e del centenario della sua teoria della relatività. Perché vi ho fatto ascoltare questa particolare registrazione? Perché nella celebrazione di questo centenario c'è qualche cosa di molto attuale, di straordinariamente attuale nel personaggio Einstein. Cominciamo dalle parole che sta pronunciando. Questo è un suo messaggio che rivolge al presidente degli Stati Uniti e sostanzialmente dice: ma vedete, fino a quando ci sarà questa attitudine tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, un'attitudine che punta al sospetto, sarà impossibile pensare alla pace, perché ciascuna delle parti avrà un atteggiamento sospetto, aggressivo e dunque non riconducibile a delle motivazioni di pace nei confronti dell'altro. Ecco il messaggio dello scienziato con la S maiuscola naturalmente, perché Einstein ha rivoluzionato il nostro mondo, molto di quello che siamo noi oggi deriva dalle sue teorie scientifiche, ma Einstein è anche il simbolo del rifugiato. Einstein scappò dalla Germania nazista, Einstein di religione ebraica, non religioso, non osservante, certamente non fanatico, amava solo la scienza e la logica della scienza, dovette lasciare la Germania e rifugiarsi negli Stati Uniti perché cominciavano le persecuzioni contro gli ebrei. Ma sentiamo una considerazione di Walter Isaacson proprio su Einstein. It's truly amazing, but something interesting happens at that point. He wins the Nobel Prize, as I say, but he wins it not for special relativity or general relativity. He wins it for an aspect of the quantum theory paper on the photoelectric effect. Ecco, chi è Walter Isaacson? Beh, Walter Isaacson è un personaggio straordinario, devo dire, ho avuto la fortuna di conoscerlo, di conoscerlo anche abbastanza bene, era il direttore di Time Magazine, poi è diventato il presidente della CNN e adesso è il responsabile e il capo, il presidente dell'Aspen Institute, ma soprattutto è un grande scrittore di biografie e ha scritto una delle più belle biografie di Albert Einstein. Ecco, Isaacson mi raccontava quanto straordinaria sia stata l'esperienza di scrivere questo libro e di raccogliere questo materiale su Einstein. Per esempio nel libro ricorda addirittura i primissimi anni di Einstein, quando era un impiegato nell'ufficio dei brevetti a Berna, raccontava la quotidianità semplice della sua vita, l'orologio nella piazza che lui vedeva dal suo ufficio. E la cosa buffa è che Einstein vince il premio Nobel nel 1921 per le sue teorie sull'effetto fotoelettrico, non sulla teoria della relatività che era stata pubblicata nel 1915 e che però era stata accolta, come dire, con molto sospetto, gli scienziati non potevano credere, non potevano immaginare che ci fosse una rivoluzione come quella che proponeva Einstein. Ma come nasce la teoria della relatività? Ecco, Einstein voleva risolvere alcune contraddizioni che emergevano tra le equazioni di Maxwell, che erano relative all'elettromagnetismo, e la relatività di Galileo. Poi c'era anche la relatività ristretta, che era in contraddizione con la teoria sulla gravità universale di Newton. Insomma, c'era molta confusione, c'erano delle leggi, delle teorie che non si riconciliavano. E dunque Einstein elabora un'equazione che va a rivoluzionare il concetto della gravità. La formula la conoscete, E uguale mc al quadrato, dove E è l'energia di una massa, l'energia di un corpo, m sta per la massa e c è la velocità della luce al quadrato. Ecco, questa formula, questa teoria, diventa poi funzionale in modo parallelo per lo sviluppo dell'energia atomica e per la realizzazione anche della bomba atomica. E c'è un appello degli scienziati di Princeton, sentiamo. We ask your help in this fateful moment as sign that we scientists do not stand alone. I agree. Ecco, l'appello era per cercare di ottenere la bomba atomica prima che la ottenessero i tedeschi. E questo è un appello di molti scienziati americani, una lettera che scrivono al presidente Roosevelt, e avete sentito alla fine il commento di Einstein che dice I agree. Ecco, un personaggio straordinario anche per questa sua, come vi dicevo, grande umanità. Ci sono mille storie attorno ad Albert Einstein. Nel 1903, per esempio, sposa la sua compagna di studi, Milena Marich, da cui ha due figli, Hans, Albert e Eduard. Dopodiché si separa e nel negoziare il divorzio, parliamo del 1910, Einstein dice: guarda, io vincerò probabilmente il premio Nobel, quindi ti darò una parte dei proventi di quel premio. E la moglie accetta, e poi guarda, il premio Nobel ha vinto davvero, e in effetti la moglie ha poi avuto una somma molto importante. Ma torniamo all'Einstein e ai suoi valori che ci danno un insegnamento per noi, per oggi, per quello che succede nel nostro mondo contemporaneo. Ecco, Einstein arriva in America nel 1933, come vi ho detto, ed era molto famoso per le sue idee pacifiste, per l'appoggio che dava ai movimenti per i diritti civili, e fin da subito l'FBI lo bollò come comunista. Pensate, per 22 anni, cioè fino all'anno della sua morte, gli agenti dell'FBI spiarono la vita dello scienziato, ascoltavano le sue telefonate, cercavano di aprire la sua corrispondenza, controllavano persino la spazzatura. L'FBI, parliamo qui appunto dei momenti più difficili della Guerra Fredda, quando il sospetto reciproco era enorme, e non è un caso che ho aperto la trasmissione con quella dichiarazione di Einstein che si appella sia a Stati Uniti che Unione Sovietica, in cui dice la pace non si potrà mai costruire fino a quando ci sarà il sospetto dell'uno dell'altro. Ecco, il sospetto dell'America era anche nei suoi confronti, perché dopo che morì nel 1955 si scoprì un fascicolo che superava le 1800 pagine. C'è anche il rapporto di Einstein con l'ebraismo. Einstein si identificava nell'ebraismo come tradizione, come grande tradizione di un popolo anche laico e non estremista religioso, semplicemente religioso. Declinò l'invito a diventare presidente dello Stato di Israele con una spiegazione molto semplice: non mi sono mai occupato di politica, amo la scienza, amo la logica, non potrei svolgere dei ruoli che non mi competono. Ecco, questo è l'insegnamento di Einstein per i nostri giorni. Io credo che se ascoltassimo di più, se andassimo a rispolverare quello che ha detto, forse alcuni degli estremismi che si manifestano anche qua negli Stati Uniti non ci sarebbero. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, siamo in clima natalizio di Bing Crosby, Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Well, you know Dasher and Dancer and Prancer and Vixen, Comet and Cupid and Donner and Blitzen. But do you recall the most famous reindeer of all? Talking about Rudolph the Red-Nosed Reindeer, had a very shiny nose, and if you ever saw it, well, you would even say it glows. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer games. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Why, Rudolph, look at here, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then how the reindeer loved him, and they shouted out with glee, Rudolph the red-nosed reindeer, you'll go down in history. And if you ever saw it, well, you would even say it glows like a rose. All of the other reindeer used to laugh and call me names. They never let poor Rudolph join in any reindeer games. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, I say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Rudolph the red-nosed reindeer, you go down in history. On Dasher, on Dancer, on Prancer, on Vixen, on Comet, on Cupid, on Donner, on Sumpin. Rudolph the red-nosed reindeer. Da New York è tutto. Mario Pretero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going.